Dunque, come da stanza, questa sera abbiamo fatto noi Rosario Marcianò. Buonasera. Ciao. Per chi lo conosce, sicuramente un riferimento importante di un rete non per quello che riguarda lo studio sulle scie cliniche, cioè su quelle non normali aerei controllati probabilmente a livello militare, lasciano sui nostri cieli la nostra saputa. Sostanze di vario tipo, minerali, metalli e altre cose che non fanno altro che aggravare la situazione di inquinamento, e Rosario ci spiegherà tutto questo in maniera abbiore. Io ovviamente non lascio la parola subito a lui, visto che sarà abbastanza esaustivo con filmati, video sull'argomento, e buon lavoro. Grazie. Comincio con un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento. Io vengo da Sanremo, quindi molti attivisti nell'ambito della ricerca e nel contrasto alle operazioni clandestine di aerosol si sono, scusate il gioco di parole, attivati affinché si potesse fare una conferenza anche qui a Verona. Io inizierei subito, perché magari molti di voi ancora non hanno una consapevolezza di cosa stiamo parlando, inizierei con un filmato introduttivo che senza parole però può già dare un'idea di quello di cui io poi andrò a parlare, a discutere. Mandiamo questo filmato che è molto breve e poi a sottofondo di quello che dirò ci saranno ancora delle altre immagini, introdurremo la questione nella sua centralità. Grazie. Allora, avete notato subito una cosa. In questo veloce reportage che è stato fatto da Nico, che è un altro attivista del Partito di Torino, la cosa che appare subito evidente è che se le, io le chiamo irrorazioni, perché tali sono, se i passaggi di questi aerei, se quindi le irrorazioni cominciano al mattino presto, iniziano con una giornata potenzialmente serena e con un cielo blu, e a fine giornata, ma non è necessario, anche solo dopo 2 ore dall'inizio dell'operazione, e quindi a metà giornata ci ritroviamo con un cielo che ha un tipico colore biancastro, spesse volte con una copertura molto densa, che i servizi meteo indicano come innocue velature, che si sanno, poi spiegheremo perché, e quindi questo è il risultato evidente, almeno per quanto riguarda la questione visiva, l'aspetto visivo, di quelle che sono delle irrorazioni clandestine nei nostri cieli ad opera di organismi militari. Perché non sono uscite di condensazione? Allora qui bisogna andare un attimo indietro e capire che cos'è una scia di condensazione e perché queste non sono scie di condensa. Una scia di condensa si forma per ben determinati fattori fisici, ovvero sia quando un aereo sorvola una determinata area di cielo a quota elevata, quindi comunque al di sopra, per quanto riguarda le nostre latitudini, al di sopra degli 8.000 metri, e incontra temperature più basse dei 42 gradi sotto zero e valori di umidità relativa uguali o superiori al 72%, i gas estremamente caldi che fuoriescono dai motori, si parla di gas che hanno temperature vicine superiori ai 750 gradi centigradi, i gas incombusti in unione alla fuoriuscita di vapore acqueo condensano a contatto con la temperatura più bassa dell'aria e formano cristalli di ghiaccio o goccioline d'acqua. Questa è la scia di condensazione vera, cioè all'uscita del gas di un jet fan, di un moderno jet, abbiamo gas incombusti che comunque sono in ogni caso inquinanti. Teniamo conto che un normale aereo di linea non manomesso, diciamo così, non modificato, inquina quanto 400 auto non catalizzate. Quindi gli aerei normali già inquinano. Però la scia di condensa normale dovrebbe essere vapore acqueo e gas incombusti. Questa è una scia di condensazione. Ufficialmente sia gli organismi militari sia in ambito così disinformativo, televisivo, sia scienziati del CNR, possiamo metterci dentro anche giornalisti a vario livello che hanno chiaramente qualche interesse evidentemente a non raccontarci come stanno veramente le cose, parlano semplicemente di scie di condensazione che si vedono con una maggiore frequenza nei nostri cieli proprio perché il traffico aereo civile, quindi commerciale, negli ultimi anni, stando a quello che dichiarano, è aumentato in maniera esponenziale. Su questo ci sarebbero già delle cose da eccepire, perché è vero che il traffico è aumentato, però non c'è proporzione tra la completa assenza di fenomeni ai quali ormai ci siamo purtroppo abituati in questi ultimi 2-3 anni, quindi completa assenza del fenomeno delle cosiddette scie di condensazione, a un incremento esponenziale di passaggi di velivoli anche su corridoi aerei civili non esistenti. Quindi se un aereo va da Nizza a Verona segue un corridoio. Se noi osserviamo uno o più aerei volare in direzioni diverse in aree che non sono coperte da corridoi aerei civili, allora ci chiediamo questi aerei che cosa sono, da dove vengono, chi li pilota, sono aerei civili, sono aerei militari, che cosa? Allora è stato osservato da più parti, è stata anche nel 2003 una denuncia da parte dell'ex sindacato degli aeroportuali Sulta, che appunto evidenziava la presenza di aerei senza contrassegni in alcuni aeroporti civili, aerei senza contrassegni e completamente bianchi. Che cosa sono i contrassegni? Ogni aereo, ogni velivolo che sia elicottero o aereo deve essere identificabile come la nostra autovettura che ha la targa. Invece questi aerei non hanno targhe identificative. Se non hanno targhe identificative vuol dire che non vogliono essere appunto identificati. Se sono completamente bianchi e non hanno livrea, è evidente che non sono aerei di linea, perché un aereo di linea, giustamente per farsi pubblicità, avrà la livrea dell'Alitalia, dell'Air One, della Ryanair, eccetera, no? Quindi queste sono le coccarde identificative e le insegne che identificano una compagnia aerea. Questi aerei invece no, sono spesso completamente bianchi. È anche vero che grazie alla informazione che in questi anni è venuta a uscire dall'ambito internet, le strategie da parte degli irrogatori, così diciamo, di coloro che stanno operando queste operazioni clandestine di aerosol, si sono affinate. Quindi alcuni aerei sono tante volte magari sempre privi di contrassegni, però hanno sul timone di coda magari un qualche cosa che può richiamare i colori di una compagnia aerea, però sono aerei camuffati, sono finti, non sono aerei civili, regolari, oppure la maggior parte delle volte, succedeva anche prima ma adesso di più, volano durante le ore notturne e a quote estremamente basse. Ora, perché noi diciamo che queste sono scie chimiche e non sono scie di condensazione? La differenza fondamentale sta nella quota, perché abbiamo detto che secondo normative, secondo affermazioni che sono state fatte anche dalla NASA, dalla FAA, dall'USAF, tutti enti ufficialmente accreditati, le scie di condensazione si formano solo se vi sono dei fattori concomitanti fisici, quali appunto, come vi avevo detto prima, 42 gradi sotto zero almeno, negli anni passati si parlava anche di 56 gradi sotto zero, adesso pian piano si sale, vedremo perché, 72% di umidità relativa e quota elevata alle nostre latitudini. Perché se noi, che ne so, siamo nel mese di agosto e abbiamo 35 gradi all'ombra, a 8000 metri chiaramente ci sarà una temperatura più bassa, perché in maniera così abbastanza generica, ma dà un'idea, ogni chilometro di elevazione scendiamo di 6,6 gradi di temperatura. Quindi, facendo un calcolo, se d'estate, come dicevo, ci sono 35 gradi a livello del mare all'ombra, a 8000 metri a Malpena arriviamo sotto lo zero, ma quella temperatura non è ancora idonea alla formazione di una scia di condensa. Per cui se noi vediamo già a quella quota un velivolo rilasciare delle scie che siano di tipo persistente o meno, cioè che coprono il cielo completamente espandendosi, oppure non persistente, nel senso che è evanescente, che quindi man mano che l'aereo va avanti la scia sparisce, in tutti e due i casi queste non sono scie di condensazione, ma sono la dispersione di elementi chimici di diverso tipo, che non sono assimilabili assolutamente al fenomeno della condensazione, perché a 0 gradi centigradi non è un parametro sufficiente per la formazione di un fenomeno della condensa. E poi, ripeto, non è sufficiente avere una temperatura al di sotto dei 42 gradi centigradi, ci deve essere anche un'umidità sufficiente. E noi sappiamo che salendo di quota l'umidità diminuisce, tant'è vero che a 8.000, 9.000, 12.000 metri l'umidità relativa spesso arriva a valori prossimi allo 0%. Quindi, seppure abbiamo 56 gradi sotto zero a 10.000 metri, ma l'umidità relativa è pari o di poco superiore allo 0%, una scia di condensa non si può generare all'uscita di un jet di un aereo moderno. E allora, vedete questo incrocio poi, che questi aerei che cosa sono? Sono aerei cosiddetti chimici. Il fenomeno delle scie chimiche, diciamo che ufficialmente è stato evidenziato nel 1995 in Canada, perché le prime sperimentazioni sono state fatte sopra una cittadina che si chiamava Espanola, e appunto in Canada, e i cittadini cominciavano a evidenziare che al di sopra del loro paesino, della loro cittadella, c'era un passaggio anomalo di decine e decine e decine di aerei in tutte le direzioni durante il giorno. e chiesero delle spiegazioni alle autorità, partendo dal sindaco e andando sempre più in alto. Le autorità, come è successo anche in questi anni qui in Italia, come anche in Europa, negarono ogni tipo di relazione con questo tipo di attività, spiegando che si trattava solamente di uscire di condensazione, e tutto finì lì. Il problema è che però il passaggio di questi aerei che irroravano sostanze chimiche provocava dei problemi di salute, e quindi mancanza di memoria a breve termine, problemi respiratori, delle vie respiratorie, quindi tosse secca, asma, problemi che magari normalmente le persone non avevano avuto prima, cominciavano ad avere problemi di questo tipo. Quindi, logicamente, le persone chiedevano spiegazioni. Spiegazioni che non vennero date nel 95 come negli anni successivi. Il problema è che le sperimentazioni, che comunque erano già cominciate negli anni precedenti, a cominciare fin dagli anni 70, le sperimentazioni ebbero un incremento esponenziale in tutto il Canada, negli Stati Uniti, e poi approdarono in Europa. Diciamo che, per esempio, per quanto riguarda la Gran Bretagna, i primi voli chimici, quindi i primi sorvoli da parte di aerei non identificati, cominciarono attorno al 97-98. E quindi, per esempio, possiamo vedere già vecchi film, vecchi dal punto di vista cinematografico, film degli anni 98-99, che già immortalano dei cieli che sono diversi dai cieli ripresi nei film degli anni precedenti, cioè cieli toccati da queste scie che oscurano il sole, che rendono il cielo una bambagia biancata. E successivamente il fenomeno si espanse negli altri paesi appartenenti alla NATO in Europa, e l'incremento definitivo si ebbe in Italia a partire dal 2003, anno critico nel quale l'ex governo Berlusconi dell'epoca firmò un accordo di cooperazione con gli Stati Uniti, firmando insieme a Bush un accordo di cooperazione per gli studi degli aerosol, per lo studio degli aerosol atmosferici. Tutto questo ora magari ve lo riassumo brevemente in un filmato di 10 minuti che spiega com'è la situazione. Intanto che ve lo trovo, cerchiamo di chiarire ancora alcuni aspetti. Allora, sostanzialmente, quali sono le sostanze chimiche che vengono rilasciate in atmosfera e perché? Perché qui a questo punto la domanda ovviamente nasce spontanea, cioè si dirà, va bene, sono sostanze, sono scientifiche, ma perché sono scientifiche? Scusate un attimo, cerco, dunque vediamo. Sono scientifiche perché si tratta di irrorazioni che hanno una finalità militare. Innanzitutto bisogna precisare che il coinvolgimento di determinati tipi di sostanze chimiche è funzionale con le apparecchiature radar moderne militari. Quindi, per esempio, nelle analisi che furono fatte fin dai primi anni, appunto, in cui furono evidenziate irrorazioni sul Canada, furono fatte già all'epoca delle analisi e venne evidenziata la presenza sia nella neve che nell'acqua piovana che nel terreno di principalmente due metalli pesanti, il bario e l'alluminio. Il bario e l'alluminio sono due metalli, oltre ad essere logicamente dannosi per la salute umana, sono due metalli elettroconduttivi. C'è da dire che le apparecchiature radar degli elicotteri e dei velivoli militari attuali funzionano in base a questo principio, cioè il medium atmosferico, quindi l'aria, l'atmosfera, deve essere impregnata di metalli elettroconduttivi per poter far funzionare questi radar. Quindi se l'atmosfera non è costantemente mantenuta in vita di metalli di questo tipo, tipo il bario, l'alluminio, ma anche il rame, il titanio, e poi vedremo altro, questi radar non funzionano, quindi sono ciechi, completamente ciechi. Infatti c'è un progetto che viene appunto definito progetto RFNP, che è altamente segreto, che parla proprio di una mappatura elettronica del territorio basata proprio sul coinvolgimento di bario in atmosfera. Infatti si è potuto verificare che il sistema radar tradizionale funziona a meno che appunto non vi siano dei territori molto ondulati, fatti di colline e montagne. In questo caso, per superare il problema della non trasferibilità dei segnali oltre l'orizzonte e quindi senza l'utilizzo di ponti, viene utilizzato il coinvolgimento di bario. Il bario è, come dicevo, un metallo pesante che inibisce alcuni centri nervosi, danneggia le vie respiratorie, è causa, e questo era stato dimostrato a suo tempo da uno scienziato di nome inglese di nome Faraday, è causa della sclerosi multipla placche, che erroneamente viene definita una malattia di tipo genetico, invece si è visto che i neuroni vengono danneggiati proprio dall'accumulo di metalli come l'alluminio, il bario e il ferro, per cui le malattie neurodegenerative in generale sono collegate all'accumulo di metalli pesanti nell'organismo. Allora, la questione dei metalli pesanti è fondamentale dal punto di vista della tutela della salute, perché malattie come l'Alzheimer, il Parkinson, abbiamo detto la sclerosi multipla placca, tanto per fare due esempi banali, ma ci sono anche altre sindromi, per esempio la sindrome di Pirra, che è molto diffusa in Sardegna, dove ci sono poligoni militari e dove l'irrorazione di metalli è ancora più incisiva. Queste malattie neurodegenerative in pratica vengono perché il nostro organismo non è in grado di eliminare da solo i metalli. Quindi se noi respiriamo delle nanoparticelle di metalli o le ingeriamo col cibo o le beviamo con l'acqua o con qualsiasi altro, le ingeriamo qualsiasi prodotto alimentare o bevanda, questi metalli entrano nel circolo sanguigno e alla fine, non potendo essere eliminati dai globuli rossi, dai globuli bianchi, che si identificano ma non riescono a distruggerli, questi metalli in nanoparticelle affluiscono al cervello, perché chiaramente il nostro cuore pompa il sangue e chiaramente se il cervello non fosse isolato di sangue noi in pochi minuti moriremmo. Ma insieme al sangue ecco che assumiamo nel circolo sanguigno anche metalli che appunto si depositano nel cervello. Tant'è vero che si è visto che negli ultimi anni ci sono studi che chiaramente non ho fatto io, ma hanno fatto scienziati negli Stati Uniti, ma anche in Europa, le malattie come l'Alzheimer e il Parkinson non solo sono aumentate per quanto riguarda la percentuale di incidenza, ma sono diminuita anche l'età nella quale viene colpita una persona. Infatti il Parkinson come l'Alzheimer fino a pochi anni fa erano definite malattie della quarta età, perché erano malattie che colpivano persone estremamente anziane. Invece adesso ci sono casi anche di ragazzi di 20 anni che hanno il Parkinson o l'Alzheimer e hanno i primi sintomi di queste malattie neurodegenerative, proprio dovute al fatto che ormai gran parte di noi ha assunto metalli pesanti in grande quantità. Un breve filmato di 10 minuti che spiega in maniera più professionale di me quello che è stato fatto e riassume un po' la questione delle scie chimiche e poi rientriamo nella discussione. Grazie. Benvenuti a Spazio Libero, il primo programma di inchieste giornalistiche che indaga e approfondisce le tematiche scomode. Il programma che va oltre il vero e vi racconta tutto quello che l'informazione tradizionale non dice. Oggi, a Spazio Libero, parliamo di scie chimiche. Sempre più spesso i nostri cieli sono solcati da scie, che si allargano progressivamente fino a formare una patina biancata. C'è chi sostiene che queste scie non sono rilasciate dal normale traffico aereo, ma da aerei prevalentemente militari, che rilascerebbero intenzionalmente sopra le nostre teste sostanze tossiche. Secondo molti ricercatori in tutto il mondo, sono in atto da anni operazioni di aerosol su vasta scala, operazioni che rientrerebbero in progetti globali top secret dai risvolti inquietanti. Per capire che cosa sono le scie chimiche, dobbiamo prima definire cosa sono le normali scie di condensazione. Secondo l'EPA, US Environmental Protection Agency, o la FAA, Federal Aviation Administration, e la NASA, una scia di condensazione consiste di vapore e acqua immesso nell'atmosfera dagli scarichi caldi di un motore, in quantità sufficiente da condensarsi momentaneamente in cristalli di ghiaccio o goccioline d'acqua a contatto con l'aria fredda ad alta quota. Un aereo rilascia una scia di condensazione solo se si verificano contemporaneamente queste tre condizioni. Vola a una quota superiore a 8.000 metri, l'umidità relativa è superiore o uguale al 70%, la temperatura è inferiore ai meno 40 gradi centigradi. Se non si verificano queste tre condizioni, non possono formarsi scie di condensazione. Una scia di condensazione dovrebbe essere quindi un fenomeno piuttosto raro, eppure i nostri cieli molto spesso sono velati, biancastri, striati. E basta guardare sopra le nostre teste per constatare che quelle che a prima vista potrebbero sembrare nubi, in realtà sono scie di aerei che si allargano. Aerei civili, militari o entrambi? Due ricercatori italiani, per rispondere a questa domanda, hanno acquistato un radar passivo, capace di captare il codice identificativo di tutti gli aerei commerciali, in grado cioè di dirci di che tipo di aereo si tratta, a che altezza vola e che rotta sta seguendo. Hanno scoperto qualcosa di molto interessante. Vediamo. Come vedete, questa è la schermata che presenta l'apparecchiatura hardware che abbiamo acquistato di recente, il radar Smart, permette di rilevare la presenza di velivoli commerciali sul territorio italiano, ma anche all'estero. Questa apparecchiatura funziona secondo un principio di ricezione del segnale sia via satellite sia direttamente da aereo. Quando questi velivoli passano sulla verticale o nelle vicinanze della nostra abitazione, non vengono segnalati dal radar. Cosa che invece avviene normalmente con gli aerei commerciali. Cioè gli aerei commerciali che entrano nell'area di copertura del radar passivo vengono segnalati, viene indicata la quota, la compagnia aerea e la rotta. Non accade questo invece per gli aerei che sono anche a pista d'occhio vicinissimi e bassi. Se questi aerei non rilasciano segnale vuol dire che è intenzionale la cosa, non vogliono essere identificati. Quali sostanze rilasciano questi aerei non identificati? Alcuni ricercatori italiani hanno prelevato campioni di acqua e neve cadute subito dopo le erogazioni chimiche e li hanno fatti analizzare. Sentiamo che cosa hanno scoperto. Allora, la cosa interessante è che in Italia la società civile, una parte della società civile non è stata ferma e ha cominciato a raccogliere dei dati. Sono in particolare negli anni 2004, 2005, 2006 è stata effettuata delle analisi. Delle analisi basate sulla raccolta di campioni in Sardegna, a Modena, in una zona vicino a Modena, a Milano e a Torino. L'analisi di fotometrica del lato piovano e raccolta in provincia di Milano ha rilevato, come si può vedere nel picco, da colori, il picco più alto corrisponde appunto al quarto, che notiamo è in quantità elevatissima, in oltre l'80%. Gli altri picchi più bassi corrispondono ad altrettante sostanze. Si può individuare anche la presenza di ossido di titanio e di idrossido di bario. Il quarto, che si trova ovviamente anche nel terreno stabilito, non può comunque essere contenuto nell'acqua più alta in concentrazioni così elevate, che raggiungono oltre l'80%. Quindi qualche cosa in questo caso può essere letteralmente tenuto dal cielo. Il quarto segnalato dà origine anche con un'incubazione molto lenta alla silicosi. In altri campioni esaminati abbiamo potuto trovare anche altri elementi assolutamente strani, insoliti, come il bario, l'alluminio, il titanio, il carbonato di calcio. Tutte le sostanze da noi trovate sono comuni in tutto il mondo, sia in Canada che in altre parti d'Europa, e i componenti killer, chiamiamoli così, sono sempre quelli: alluminio, bario, quarzo, titanio e sale di calcio. Molto pericolosi sono, stati, il bario e l'alluminio. L'alluminio è un metallo pesante che influisce sul sistema nervoso e che provoca lungo andare la pietra conosciuta con il nome di Mondo Bersaglio. Nel gennaio 2002, Bush e l'allora presidente del Consiglio Berlusconi hanno firmato un accordo dal titolo Cooperazione Italia-USA su scienza e tecnologia dei cambiamenti climatici. L'obiettivo ufficiale è quello di finanziare progetti di ricerca nel campo delle energie alternative. In realtà nelle linee guida si parla di esperimenti di manipolazione degli ecosistemi terrestri che permettano di esporre la vegetazione a condizioni ambientali simili a quelle attese in scenari di cambiamento globale. Si parla di verifiche in campo di ipotesi sviluppate nell'ambito di esperimenti di laboratorio e si programma lo studio dell'interazione tra aerosol e nubi. Il documento spiega come si intenda sperimentare le condizioni di temperatura, precipitazioni e concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera alle quali andremo incontro nei prossimi 100 anni per verificarne subito gli effetti sull'ecosistema e sulla vegetazione. E ENAV tengono sotto controllo i cieli italiani 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno con una copertura radar totale. I controllori civili lavorano fianco a fianco con quelli militari. Per questo motivo la procedura d'allarme è così rapida. Quindi, secondo la TV pubblica, possiamo dormire sogni tranquilli perché l'ENAV veglia su di noi. Ma è davvero così? Oppure gli aerei della NATO possono fare quello che vogliono sopra le nostre teste? Nel 2003 il SULTA, sindacato dei lavoratori del trasporto aereo, denunciava in diversi aeroporti italiani la sosta e il passaggio di numerosi aerei militari, molti dei quali privi di livelli di riconoscimento o totalmente colorati di bianco. Denunciava inoltre che tali soste erano avvenute senza che ne fosse informato il Parlamento italiano. Nell'esposto si chiedeva l'intervento delle autorità sanitarie, poiché a Napoli, nell'aeroporto di Capodichino, erano stati riscontrati alti livelli di radioattività, in coincidenza con la sosta di questi aerei. Noi vorremmo sapere come mai degli aerei della NATO ci sorvolano sopra la testa rilasciandoci scie chimiche con metalli pesanti e vario? È un problema ancora più complesso. I nostri spazi, non sono i nostri spazi, i nostri siti, i marini e terrestri, ancora oggi sono occupati, solo sta facendo una grande battaglia, sono occupati da realtà militari non italiane. Noi in Italia non sappiamo neanche se e quando bombe atomiche. A voi il compito di cercare la risposta definitiva, guardate, oltre un velo. Perfetto, nel senso che questo documento è in realtà un documentario di circa 45 minuti e abbiamo condensato in 10 minuti quel tanto per far capire e introdurre la questione in maniera abbastanza veloce, e di solito se ne parlo io magari rischio di così di perdermi nei discorsi. Allora, ci sono dei punti fondamentali. Abbiamo visto che è stato firmato un accordo tra Berlusconi e Bush per una simulazione in situ, quindi non attraverso sistemi informatici, ma direttamente con sperimentazione reale nella nostra atmosfera, nei nostri cieli, per simulare appunto delle condizioni estreme. Però appunto qui voglio puntualizzare che non è una questione partitica, ma è anzi una questione transpartitica. Perché? Perché a chi è stato dato l'incarico di presiedere questo tipo di attività clandestina di aerosol in base all'accordo del 2002 tra Berlusconi e Bush? Al fratello di Prodi. Franco Prodi è a dirigenza del reparto CNR per quanto riguarda questo tipo di sperimentazione. Quindi qui innanzitutto dobbiamo renderci conto che da un punto di vista dei partiti non esiste partito che ci possa aiutare in questo senso. Non c'è partito contro e partito pro. Tutti i partiti eseguono operazioni che sono transpartitiche e al di sopra della politica. Secondo il mio modesto parere, la politica ormai, anche a livello così generalmente mondiale, è ostaggio di poteri militari e anche di più. Da questo cioè questa conclusione viene semplicemente da dati di fatto, cioè noi sappiamo che anche recentemente Di Pietro, come anche un mese fa il senatore Brandolini, anche in base agli studi che avevamo fatto noi e quindi alle informazioni che tutti gli attivisti hanno così sparso sul web, anche Di Pietro si è dato così da fare, ha stilato una interrogazione parlamentare chiedendo spiegazioni su che cosa sono queste migrazioni, chi le ha ordinate, chi le gestisce. Innanzitutto la cosa importante è che di quelle interrogazioni che in Europa sono state fatte anche a firma del Parlamento Europeo nel 2001, e poi vedremo su che cosa, i giornali non ne hanno mai parlato. Cioè i media non parlano di scelte, i media non parlano delle interrogazioni parlamentari che vengono fatte da qualche sparuto parlamentare che magari è stato illuminato sulla strada di Damasco e ha pensato di fare un'interrogazione sulle scelte, prendendosi addosso anche gli insulti dei disinformatori che in Italia sono al vertice per quanto riguarda questo tipo di attività, cioè il discredito di chi si occupa di scelte. La risposta che è stata data in tutti questi casi, quando è stata data, in alcuni casi è stata elusa qualsiasi risposta, è stata una risposta generica, vaga, inconcludente. Perché? Perché i nostri politici sono ostaggio dei militari, perché oggi a comandare sono i militari, perché queste regolazioni hanno scopi di protezione militare, c'è sicuramente non solo la questione dei radar, ma voi conoscete solo a livello superficiale, perché la colpa purtroppo è dei media che ci informano in modo superficiale, il famoso scudo spaziale. Che cosa sono? Lo scudo spaziale non sono missili. Lo scudo spaziale sarebbe l'installazione di antenne di grossa potenza che emettono radiazioni elettromagnetiche a bassissima frequenza, che sono in grado di disturbare i sistemi elettronici. Questa tecnologia si basa su studi che aveva fatto un disconosciuto e distrattato scienziato nei primi del Novecento dello scorso secolo, Tesla, Nikola Tesla. Questi studi sono stati ripresi da uno scienziato americano che si chiama Hertzlund e sono l'applicazione definitiva che è stata fatta da questi studi, queste ricerche, queste scoperte di Nikola Tesla, è l'impianto ARP situato a Gakona in Alaska. Che cos'è l'impianto ARP? L'impianto ARP, innanzitutto, prima di spiegare che cos'è, bisogna chiarire che è sinergico alle scie cliniche, alle innovazioni. Airplus aveva studiato un sistema per ricoprire la ionosfera, riempire la ionosfera di sostanze metalliche riflettenti che ufficialmente servivano per proteggerci dai raggi solari e quindi per mitigare il famigerato effetto serra, sul quale poi mi fermerò un attimo, perché anche lì è disinformazione. Quindi Tesla aveva consigliato di disperdere particelle metalliche in atmosfera, propriamente nella ionosfera, per riflettere i raggi solari. In realtà, invece, questo tipo di irrorazione di metalli nella ionosfera e anche, come vediamo, a quote più basse, serve per le apparecchiature radar che si trovano non solo in Alaska, ma appunto di cui la principale stazione si trova in Alaska. Sono 132 antenne, il completamento è stato fatto qualche mese fa, 132 antenne alte più di 20 metri ciascuna, che hanno una potenza di emissione di onde elettromagnetiche micidiali, incommensurabile. Tanto è vero, tanto per farvi un esempio, che gli scienziati ufficialmente dichiarano di studiare la ionosfera attraverso l'emissione di queste onde elettromagnetiche, sono stati in grado di sondare, scandagliare il suolo lunare attraverso le emissioni di onde elettromagnetiche proprio dalle stazioni ARP situate in Alaska. Questo per darvi un'idea della potenza anche distruttiva di ARP. ARP è controllato dai militari. La NASA negli ultimi anni è passata sotto il controllo dei militari. Le previsioni meteorologiche anche a livello delle TV locali per quanto riguarda le sedi RAI sono passate nell'ultimo anno a titolo obbligatorio alla, ai militari, sono state, vengono gestite dai militari, con ciò nonostante tutto la RAI comunque deve sforzare, quindi noi con il nostro canone, dei soldi per queste previsioni meteo che vengono ormai gestite totalmente dai militari. Perché i militari gestiscono tutto? Perché tutto deve essere sotto controllo. Quindi anche nelle previsioni meteo, vediamo che per esempio per la giornata di oggi, leggevo ieri, sono previste nel pomeriggio, è previsto nel pomeriggio passaggio di innocue velature in spostamento di luce. Evidentemente prevedono il passaggio delle scettine. Solamente che per loro i servizi meteo sono innocue velature. Perché aggiungere l'appellativo innocue, l'aggettivo innocue sulle velature? Per convincerci che quelle velature sono innocue. Ma se ce lo dicono, può darsi che sia il contrario. E infatti è il contrario. Allora, ARP perché è finito alle scie limite? Per il semplice motivo che, visto che ARP emette delle onde elettromagnetiche e si trova solamente lontano, distante da noi, c'è la necessità che queste onde elettromagnetiche vengano diffuse in tutto il globo terracqueo senza l'uso di ponti. Per far ciò si usa uno strato riflettente che è la ionosfera, che attraverso l'irrorazione di aerei a bassa quota, quelli che vediamo, e ad alta e altissima quota, quelli che non vediamo da diversi anni, permettono alla ionosfera di diventare una sorta di specchio riflettente per le onde elettromagnetiche che vengono riflesse verso il basso. Ecco perché l'Atlantico è pieno di scie chimiche, ecco perché l'Europa è piena di scie chimiche, ecco perché la Croazia che qualche anno fa ha fatto la richiesta di entrare alla NATO il giorno dopo si è vista sorvolare da questi aerei, perché il progetto è quello di coprire l'intero globo terracqueo di irrorazioni chimiche a fini militari. ARP emette onde elettromagnetiche, dicevo, con frequenze comprese tra i 4 e i 16 Hz. I 4 Hz servono per comunicare con i sommergibili, però i 4 Hz sono anche la frequenza vicina alla frequenza del nostro corpo umano. Noi per esempio quando sogniamo la nostra fase REM funziona sulla frequenza dei 4 Hz. È ovvio pensare che se noi come corpo umano che funzioniamo come un'antenna ricevente riceviamo appunto delle onde elettromagnetiche dall'esterno che magari spazzano anche di frequenza, perché abbiamo detto che altre trasmette frequenze anche di F tra i 4 e i 15 Hz, ma anche di altissime frequenze, il nostro organismo comincia ad avere degli scombussolamenti, perché se la fase REM è quella del sogno, se il nostro cervello durante la notte recepisce delle onde elettromagnetiche con frequenza diversa, tende a sintonizzarsi come se fosse una radio su queste frequenze diverse e quindi la fase REM viene inibita. Una persona che non sogna è anche una persona potenzialmente più violenta, una persona che non dorme bene è una persona potenzialmente meno attenta alla guida, sul lavoro, e quindi anche questa è una conseguenza che noi non percepiamo a livello conscio, ma che è una conseguenza dovuta alla continua emissione di onde elettromagnetiche. Purtroppo le onde elettromagnetiche non si vedono, non si sentono. Il nostro fisico le percepisce come stanchezza, mal di testa, fischio alle orecchie. Questi sono sintomi dovuti proprio all'emissione, alla ricezione di onde elettromagnetiche che provengono dall'esterno. Ma allora, intanto la questione si è basata sempre per quanto riguarda la disinformazione. Che cos'è la disinformazione? La parola stessa lo dice, cioè ci sono diciamo persone e anche gruppi tipo il CICAP sul quale il nostro amico Vito, ma poi magari può anche fare un intervento se vuole, è più esperto di me perché lui sta proprio premendo a livello così informativo corretto sulla disinformazione che invece fa il CICAP. Il CICAP, che si è sempre occupato di paranormale, ha deciso di occuparsi di scientifiche negandone l'esistenza. Gli enti ufficiali, come anche il CICAP e anche alcuni scienziati, diversi meteorologi, lo stesso Giuliacci, ha negato l'esistenza del CETIN, che egli afferma che sono solo CETIN di condensazione, tutti quanti, anche nelle interrogazioni parlamentari, quindi alle risposte, nelle risposte a queste interrogazioni viene spiegato che si tratta di aerei normali, normale traffico aereo civile, incrementato, e quindi si vedono più scie, perché si tratta di aerei che volano ad alte quote, quindi formano scie di condensazione. Allora noi come facciamo a dire che queste sono scie cliniche perché così ce lo siamo inventati noi? No, perché questi aerei volano più bassi. E perché volano più bassi? Perché torniamo al discorso delle emissioni elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche si trasmettono correttamente in un medium atmosferico che sia con valori di umidità molto bassa. Quindi se noi abbiamo una giornata con valori di umidità standard, diciamo così 70-75%, questi valori di umidità relativa sono troppi, sono un valore percentuale troppo elevato per quanto riguarda le esigenze militari relative alle onde, all'emissione di onde elettromagnetiche. Perché appunto se noi per esempio immergiamo, fate un esperimento, mettiamo il nostro cellulare in un barattolo di vetro e poi lo inseriamo in una vaschetta dell'acqua, poi proviamo a chiamare e il cellulare non risponde perché c'è l'acqua. Quindi questi aerei che cosa fanno principalmente, quelli che vediamo noi a bassa quota? Servono a distruggere l'umidità in atmosfera. Per distruggerla usano elementi particolari come il trimetilalluminio. Il trimetilalluminio è appunto un metallo in forma liquida che può essere quindi tranquillamente miscelato ai carburanti aerei, ha una forte funzione additiva e quindi diminuisce i consumi e aumenta le prestazioni dei velivoli, ed è un metallo che una volta a contatto con l'ossigeno si particolizza, diventa particolato metallico in forma di polvere nanometrica e quindi poi noi lo respiriamo. Ma qual è la caratteristica del trimetilalluminio? Ha una caratteristica fondamentale, quella di assorbire totalmente, in maniera proprio come se fosse una spugna, un aspirapolvere, l'umidità atmosferica facendola propria. E quindi noi vediamo scie in espansione che si allargano fino a coprire completamente il cielo, estremamente bianche, luminose a tramonto all'alba, e proprio perché sono composte in principal modo dal trimetilalluminio, che ha questa capacità di espandersi come se fosse piuma epossidica. E quindi noi noteremo, perché sono a quota bassa, noteremo che spesso se c'è la formazione di cumuli, i cumuli sono quelle nuvolette che da bambini ci dicevano, ah guarda le nuvole a pecorelle, no? Sono quelle famose nuvolette che nelle giornate di cielo sereno normalmente fanno la loro apparizione. Perché? Perché l'aria e l'atmosfera è umida e quindi si formano dei nuclei di condensazione che creano questi cumuli che viaggiano, se trasportati dal vento. Questi cumuli danno fastidio, devono essere dissolti, distrutti. Allora vedremo, come nel primo filmato che vi ho fatto vedere prima di tutta la discussione, vedremo che questi aerei attraversano o addirittura volano al di sotto dei cumuli. Ma i cumuli sono nuvole che stanziano nei nostri cieli a quote comprese tra gli 800 e i 2300 metri. E allora, se questi aerei rilasciano delle lunghe scie all'interno dei cumuli o al di sotto dei cumuli, non sono 8000 metri e nemmeno 12000, sono più bassi. E se rilasciano delle scie, questa non è condensazione, perché anche se io oggi qua ho 17 gradi centigradi, a 2000 metri di quota sono al massimo 14 gradi di meno, quindi sono ancora sopra lo zero. E come fa a formarsi la condensa sopra lo zero? Non è possibile. Ma non si può formare neanche a 10 gradi sotto lo zero, ci vogliono almeno 40 gradi sotto zero e ci vuole umidità fino al 72%. Quindi sono scie chimiche composte dai metalli che abbiamo visto vengono ritrovati al suolo. Ma non c'è solo questo, perché chiaramente le scie chimiche sono un'arma polivalente. Per essere polivalente vuol dire che tutti quanti hanno un guadagno, sia nello stare zitti, sia nel fare questa informazione e quindi fa credere alla gente che si tratta semplicemente di cieli condensi e quindi di vapore acqueo innocuo, le famose innocue verdure delle quali ci parlano centri meteo.